Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Buonasera e ben ritrovati sui 102.2 di Radio San Donà in compagnia di una nuova puntata di Overbooking con me, Alvise, Giulia che mi accompagnerà nella presentazione del libro di questa sera che è il libro di un autore emergente, Andy Boxett, e si intitola Il collezionista di anoressiche. Buonasera Giulia innanzitutto. Buonasera. E buonasera Andy Boxett. Buonasera. Che viene a presentarci questo suo lavoro. Ciao Giulia, ciao Alvise, grazie dell'ospitalità e un saluto agli ascoltatori. Allora, come voi sapete già in passato Overbooking si è occupato di autori emergenti, autori della zona, è un tema che a noi è particolarmente caro perché ci permette un po' di dare anche rilievo a quelle che sono voci nuove e voci, se si può dire, locali, ma senza voler offendere o prendere in giro. E vorrei sapere innanzitutto che cosa ti ha spinto a scrivere questo romanzo, da dove nasce l'idea? Dunque, la spinta è venuta dopo un lungo girovagare di idee, un ronzare della testa e una curiosità, spero non malsana, verso l'anoressia, il mondo dell'anoressia. Di solito io quando ho l'ispirazione per scrivere comincio a essere molto distratto, a star sveglio di notte o comunque a sentire un qualcosa che ho sempre nella testa. Il collezionista di anoressiche è nato di getto in un mese di scrittura, dopo che forse per una quindicina di giorni continuava a ronzarmi per la testa e dopo che per anni e da anni ero e sono molto attratto dall'anoressia, che peraltro io non considero, anche forse sembrerà una provocazione, non considero una malattia, ma considero forse la punta dell'iceberg di un disagio che forse nasconde molte altre cose. Ma prima di parlare del libro, che appunto, come abbiamo detto, ha come tema centrale l'anoressia, io sono molto curiosa di sapere come mai hai scelto uno pseudonimo, di scrivere sotto uno pseudonimo, che poi è la traduzione del tuo vero nome. Esatto, è la traduzione un po' adattata del mio vero nome e cognome. Ma è stata una scelta un po' nata per gioco, nel senso che vedevo altri scrittori con pseudonimi più o meno strani, peraltro di cui ho letto anche qualcosa, ero molto attratto un po' dal genio e sregolatezza di Andrea Pinkez, che è uno scrittore milanese con cui anche mi sono scambiato qualche mail. E per cui questa traduzione è nata un po' come un gioco che ho mantenuto ed è divenuto, tra virgolette, il mio marchio di fabbrica. E quindi anche nei tuoi futuri lavori pensi di mantenere lo pseudonimo di Andy Boxet oppure... Sì, credo di sì. Ci sono cose in cantiere, magari se avremo il tempo ne parleremo dopo, però penso che rimarrà quello. Bene, torniamo alla storia che c'è dietro il collezionista di anoressiche. Se volessi dare un riferimento agli ascoltatori sul genere, come lo definiresti? È una bella domanda, nel senso che secondo me, ma anche a giudizio di persone che l'hanno letto e poi di cui poi ne hanno parlato con me, è un misto di generi, dal pulp al noir, all'hard boiled, cioè tutta una serie di generi che forse si mescolano. Qualcuno ci ha visto qualcosa di Hitchcockiano anche. Cioè, e questo mi ha fatto molto piacere, per dire la verità, anche perché io sono un fan accanito di Hitchcock e credo che La donna che visse due volte, di essermelo guardato una quindicina di volte. Quindi è un misto di tutti questi, secondo me, generi, anche se in realtà non era nato, almeno per me, con l'idea di un genere ben definito. Ha trovato il suo svolgimento in questo modo e che ha raccolto una pluralità di caratteristiche e di tipologie di scrittura e narrazione. Ma entriamo proprio nel vivo di questo romanzo. Allora, il collezionista di anoressiche ha come protagonista Dino, un personaggio sicuramente con qualche rotella fuori posto, che lavora nel mondo della moda, un personaggio senza scrupoli, che ha una strana perversione. Ce ne vuoi parlare tu? Sì, Dino è direi che forse può essere definito, ma senza fare, come dire, professione messianica, anche perché non cioè sono giovane anch'io ancora, è un po' un prodotto dei nostri tempi, cioè una persona che ha la fissa dell'ideale, una persona che crede che visione e immagine si sovrappongono, cioè quello che vedo è veramente quello che vedo, che è tipica secondo me dei nostri giorni, della nostra realtà e soprattutto come dire, del nostro mondo occidentale, cioè una visione iconoclastica della realtà, per cui una ricerca sfrenata della perfezione, dell'ideale, anche se questo poi si può tradurre in strade fatte di persone che si perdono, persone che passano all'azione, persone che diventano vittima dell'ideale, poi come alla fine sarà Dino per certi aspetti. Beh, Dino, a me colpisce per due aspetti principalmente. Da un lato, il fatto di essere in un certo senso un po' self-made man, ossia, tu a un certo punto ne racconti la carriera professionale o la storia che lo ha condotto al successo e lui appare essersi fatto da solo. Da un lato, il rapporto con la madre che è anziana ed è molto malata ed è in una casa di riposo. Perché hai voluto creare questa ambivalenza, in un certo senso, nella caratterizzazione del protagonista? Diciamo che era una stortura appunto voluta, perché cosa c'è di forse peggiore nella visione di un misto corpo umano-macchina? Io, come dire, ho inserito la madre di Dino dentro un tubo, che poi mi ricorda a livello di cronaca, una paziente che mi ricordo di cui facevano alcuni servizi in televisione, che io ero molto giovane, però mi colpiva il fatto che vedeva attraverso uno specchio e soprattutto che scriveva dettando, ha scritto dei libri, mi pare. Per cui Questo però a me sembrava un androide da ragazzino, perché comunque ero molto giovane. E per cui ho voluto, come dire, mettere in contrapposizione l'idea di superuomo di Dino, cioè l'uomo che si è fatto da sé, l'uomo che non deve chiedere mai alla Denim, diciamo, Esatto. e con quello di avere comunque una genesi, suo malgrado, fatta attraverso un androide, cioè una madre che, per una, tra virgolette, cosa banalissima, cioè un accesso d'asma, è costretta a vivere dentro un polmone d'acciaio, e questo per lui non è accettabile. E poi Dino si può definire, secondo me, un serial killer passivo, però, perché diciamo che cosa fa? Lui ha una serie di fidanzate che fa dimagrire fino a che queste ragazze muoiono per infarti o incidenti dovuti alla loro eccessiva magrezza. Come mai ti è venuta questa idea? Beh, mi è venuta questa idea perché io credo molto nel potere della parola, cioè la parola intesa come scambio, cioè non ascoltare ma sentire, cioè sentire qualcosa di nuovo, e nella parola uno scambio. E in questo ho incastrato anche una questione culturale che secondo me è imprescindibile per ognuno di noi, cioè. Se tu ricordi, cioè, Dino è un serial killer passivo, e le sue donne subiscono la sua, come dire, capacità ammaliatoria, la capacità del dialogo o delle sue parole. L'unica persona che apparentemente, presa molto dal luogo comune, bello, brutto, pettinato, spettinato, non troverà invece la sua questione culturale, e sarà quella che da vittima diventerà, come dire, carnefice di Dino, cioè attraverso un suo percorso culturale mostrerà a Dino il vero volto dell'ideale, e poi la vittima diverrà lui. Bene, prima di andare ulteriormente a approfondire il contenuto del collezionista di anoressiche, che è il libro di questa sera, edito qualche anno fa, se non sbaglio, era il Gennaio 2007? 2010, 2000. Oh, proprio chiedo giovanissimo, assolutamente scusa. non c'è nessun problema. Per Albatros il Filo, vi facciamo sentire una canzone di un gruppo semisconosciuto statunitense. Questi sono i MAPS sui 102.2 di RSD. Disappear when you 102.2 RSD, una nuova puntata di Overbooking in compagnia di Andy Boxett e del suo Il collezionista di anoressiche, edito, mi correggo ancora da prima, nel fresco di stampa nel 2010 per Albatros il Filo. Abbiamo un po' parlato del contenuto del testo, ne parleremo ancora un altro po' con l'autore. Vi ricordo che per intervenire in trasmissione potete sempre chiamare lo 0421 56 0993 o mandare un fax allo 0421 56 0994, altrimenti rispondiamo sempre alle vostre mail a radio@radiosandona.it. Infine vi ricordo che questa, come tutte le precedenti puntate di Overbooking, sono scaricabili o ascoltabili in streaming dal nostro blog, che è www.bloverbooking.wordpress.com. lì potreste trovare, a parte le puntate, tutta una serie di, diciamo, succose iniziative che ruotano attorno all'universo di Overbooking, e quindi recensioni di libri, una serie di attività che portiamo avanti con la scuola Holden di Torino e delle interviste che abbiamo realizzato in collaborazione con scuola Holden e con Feltrinelli alla fiera del libro di Mantova e alla fiera del libro di Pordenone. Bene, torniamo, dopo questo momento di vendita pentole e consigli per gli acquisti, torniamo al collezionista di anoressiche, e io vedo che Giulia scalpita per far domande. Infatti, perché proprio mentre io e Elvise ci stavamo preparando per questa intervista, abbiamo visionato a lungo i filmati riguardanti Marco Mariolini. Mario, credo. O Mario Marcolini o Marco Mariolini, chi lo sa, vabbè, non è importante. Intervistato da Franca Leusini per Storie Maledette. Allora diciamo che cosa faceva questo personaggio, che, premettiamo, aveva metà faccia con la barba, i capelli, e l'altra metà completamente glabra. Sì, io voglio dire che ho visto un qualcosa di simile al Carnevale di Venezia, non sto scherzando, degli anni fa, e mi è piaciuto molto. Infatti noi ci aspettavamo un po' anche che Andy Boxett arrivasse conciato così. Esatto. Per quale Forse motivo? Forse non mi avreste aperto. Perché Marco Mariolini o Mario Marcolini, verificheremo, era una specie di personaggio scentrato che faceva qualcosa di simile a quello che fa Dino nel collezionista di anoressiche. Il problema è che lo faceva realmente, e cioè cosa ha fatto Mariolini? Lui aveva questa fidanzata, l'ha costretta a dimagrire, e infine, quando lei ha mostrato dei segni di ribellione, l'ha accoltellata, non senza darle una sorta di avviso. In che modo? Con un libro che si titolava Il cacciatore di anoressiche. Quindi noi eravamo anche un po' inquieti ad accogliere Andy Boxett a questa trasmissione, però ormai è qui e quindi sì, corriamo il rischio. Quindi ecco, che cosa c'è di Marco Mariolini o di Mario Marcolini in Dino del collezionista di anoressiche? Beh, diciamo che la ricerca dell'anoressia e dell'ossutezza probabilmente hanno in comune questi due personaggi, uno di fantasia, uno purtroppo reale. Credo di altro ben poco, cioè la storia di Mariolini, o come si chiama, la conoscevo anch'io perché ho visto anch'io quella famosa puntata di Storie Maledette, e anche a me per certi aspetti ha folgorato, soprattutto il suo aspetto esteriore. Però io non ho né mai letto il suo libro né visto il film Primo Amore, da cui che la storia, il film da cui è stato preso la sua narrazione, il suo testo. Però a differenza di Mariolini, che agiva, diciamo, in un contesto molto degradato e la cui principale aspirazione era quella di avere una fidanzata ossuta, e soprattutto credo che avesse una buona dose di isteria e soprattutto di sadismo, perché da quanto riportano le cronache andava al ristorante abbuffandosi e pretendeva che le sue compagne lo guardassero senza ordinare nemmeno una tazza di tè. Ecco, tutto questo, diciamo, non fa parte del mondo di Dino, anche se devo dire che purtroppo, come Mariolini, assistiamo ultimamente a dei passaggi all'azione. Io ho scritto questo racconto, questo libro, in preda a una curiosità per questo mondo, ma soprattutto perché penso che comunque la scrittura, a parte il caso di Mariolini, serve anche per elaborare le proprie questioni e purtroppo per questioni non elaborate, che possono anche poi sconfinare proprio in malattie mentali, c'è un vero e proprio passaggio all'azione, quindi non ci si ferma, non si elaborano le cose, purtroppo poi assistiamo ai fatti di cronaca che sentiamo. A me, no, io non sono a livello di Mariolini, nel senso sono ancora sano, però devo dire, allacciandomi a questo discorso, che la scrittura mi è servita molto e mi serve molto per elaborare i miei disagi, che sono i disagi, credo, che ognuno di noi per la propria parte ha. E quindi anche è stato anche un po' un percorso tuo a livello, cioè a livello Sì, personale, direi proprio questa. di sì, cioè io non mi vergogno a dirvi che cioè, ho avuto parecchie questioni anch'io con l'ideale, cioè mi ricordo che non uscivo di casa se non mi guardavo il pantalone, se era tutto a posto, oppure, come dire, ci sono stati dei veri e propri periodi che mi sono confidato anche con Andrea Mazzon, che è fra l'altro un noto Cioè, è scrittore stato anche nostro sannonatese, ospite che che so che è stato salutiamo. vostro ospite e che ha avuto la gentilezza di presentarmi al Caffè Letterario un po' di tempo fa. E che c'erano momenti in cui avevo delle proprie allucinazioni visive, cioè io vedevo la mia compagna con i baffi, per dire. Cioè, allora mi chiedevo, ma quello che vedo è veramente quello che vedo? Cioè, delle cose da scappare a gambe levate. In realtà, come dire, stavo capendo che forse c'era qualcosa di me nei riguardi all'ideale che forse non quadrava. E devo dire che il collezionista di anoressiche mi è servito anche per elaborare questa questione e per pensare, questa è una mia personalissima opinione, che l'ideale, cioè quando idealizzo una cosa la faccio morire perché gli tolgo il tempo, l'esperienza e tutta una serie di questioni che invece, di cui invece bisogna tener conto. E questo tuo è una domanda assolutamente estemporanea, ma questa ricerca che hai fatto anche su di te, se vogliamo, è in qualche modo paragonabile a quello che fa Tina, ossia Tina, diciamo che è nel romanzo la seconda fidanzata di Dino dopo Francesca. Francesca, purtroppo farà una brutta fine Sì. legata appunto a queste scelte alimentari un po' avventate. E Tina invece reagisce con un suo percorso di, diciamo, autoanalisi e di ricerca scientifica in qualche modo. Sì, beh, effettivamente dice una cosa molto azzeccata per quanto mi riguarda, nel senso che, come dire, il mio percorso personale è quello di uno che piano piano, dopo essersi accorto probabilmente di essere vissuto per molto tempo con le fette di prosciutto negli occhi, ha cominciato a toglierle e vedere le cose in un altro, con un'altra ottica. Ad oggi, cioè, io un po' vedo, ma non, cioè, come dire, non voglio fare un discorso messianico, cioè io non ho la verità in tasca, ci mancherebbe, però, come dire, magari vedo, leggo, studio. Parlo con le persone, ho anche un lavoro che mi porta a contatto molto con le persone perché mi occupo di selezione del personale, quindi vedo di tutto di più. Vedo che, come dire, ci sono molte persone in preda a dei disagi piuttosto anche visibili. Però no, leggendo poi i giornali o studiando un attimo, vedo che le cronache mi dicono che, è in aumento esponenziale l'uso di psicofarmaci anche nei giovani. Beh, droghe, naturalmente non siamo qua a parlarne e vedo soprattutto, e adesso mi ricollego anche proprio al collezionista di anoressiche, cioè io rimango basito quando, come dire, abbiamo bisogno di un disegno di legge per vietare alle minorenni di rifarsi il seno, cioè credo, dico, veramente, pensiamo di avere una fantasia di padronanza sul nostro corpo o sulla nostra immagine che secondo me non è nostra. Io mi ricordo, faccio sempre l'esempio, anche quando faccio le presentazioni o comunque parlando con le persone, io ho sempre in mente l'esempio di Michael Jackson, cioè una persona molto nota che tutti conosciamo, cioè talmente ha voluto cercare la perfezione per lui che io le ultime immagini che ho visto sue prima che morisse, era un mostro. Cioè, Completamente proprio snaturato, sì. l'uguale al contrario, la Sembrava una legge del tartaruga un contrappasso. po'. La legge del contrappasso. Eh sì. E adesso, prima di parlare un po' del futuro di Andy, del futuro da scrittore di Andy Boxett, andiamo con un secondo intermezzo musicale, sempre sui 102.2 di RSD. Questi sono i Vietnam. Well, summer in the city is always so much prettier when you can't look back. And the nightlife is much brighter when you're shot up with fire and you're all dressed up in black. And you're feeling so much better even under the weather from the pills you stole from the rich girl Mowry's medicine cabinet. Well, hey, it's okay. We all came here to play with summer nights and summer days. Summer nights and summer days. In the city we are wasted. Club door, we had to find something to help us stay away. And there's Lou Ann with a camera in hand, you know she's just a blowing away. And what's up, Eugene? You're looking pretty mean with your tight blue jeans and your smacked up dreams, but don't waste my time. E sulle note di Summer in the City dei Vietnam, sempre con overbooking sui 102.2 di RSD, siamo in compagnia di Andy Boxett e del suo collezionista di anoressiche. Ormai abbiamo cercato, abbiamo fatto del nostro meglio per svelare un po' la trama del libro. Io sono sempre interessato, classica curiosità senile, sono sempre interessato al processo che ti ha portato a scrivere e se è stato facile non solo la parte di scrittura ma anche la parte di vederti pubblicato o riuscire a ottenere una pubblicazione. Ci puoi raccontare qualcosa anche se hai un aneddoto? Il collezionista di anoressiche che è nato in breve tempo, perché come ti dicevo prima è stato scritto abbastanza di getto, credo in un mese di averlo buttato giù, e poi è stato in un cassetto per molto tempo. Purtroppo credo che il mondo dell'editoria in Italia, ma non credo solo, e comunque in generale, sia un mondo variegato e tortuoso e difficile per chi vuole entrarci, a meno che uno non venga considerato il genio o la novità dell'anno, per cui incuriosisce le grosse case editrici. È stato editato, ha trovato la sua giusta collocazione in una maniera abbastanza banale, perché poi le cose nella vita magari molte volte accadono così. C'era un annuncio sul giornale, un quotidiano nazionale, ho mandato il manoscritto e mi hanno fatto una proposta editoriale, naturalmente, ma non mi vergogno a dirlo, una proposta abbastanza vantaggiosa per un emergente, però come dire, i rischi economici e non ce li siamo divisi equamente. Ma io non ne faccio una questione di purismo, anche perché comunque cioè per me è una sorta tra virgolette di impresa, cioè io credo che bisogna anche investire eventualmente per vedere come vanno le cose e per magari valutare se quella che è una tua passione può trovare uno suo sfogo anche più ampio. E poi secondo me, anche se vedo che molti la pensano diversamente, però secondo me non è detto che una casa editrice che ti pubblica gratuitamente lo faccia perché tu sei un genio della scrittura, magari hanno anche altri motivi. Io credo che, cioè, per opinione personalissima, alcuni casi letterari sono puramente montati, secondo me. Io ho letto da poco, per fare un esempio, adesso magari verrò poi querelato, ho letto da poco, ma tanto non credo ci stia sentendo dagli Stati Uniti, American Psycho di Bret Easton Ellis. Sì. È stata una delusione per me, secondo me, mega galattica, cioè pornografia allo stato puro e violenza della più becera allo stato puro, senza nessun filtro, senza nessuna significazione. Cioè io sono arrivato all'ultima pagina e non ho capito cosa mi voleva dire. Sì, poi comunque è anche molto facile pubblicare scrivendo di cose particolarmente scabrose, come ad esempio fa Melissa P, che esatto, non si starà ascoltando ma ci querelerà, che io non amo particolarmente. Però vabbè, sfondi una porta strana. Ma aperta. Che effettivamente scrive dei manoscritti di porcate, secondo me alla fine è anche facile farsi pubblicare. Sì, poi diciamo che come solito il pruriginoso attrae, cioè guardare dal buco della serratura, come dire, attrae molto. Piuttosto di poi lei, che insomma, altre cose. È carina, va un po', recita un po' questo personaggio. Un po' Lolita, se vogliamo. Poi io non credo che abbia tutta questa esperienza e tutto sto disinibito, non ci credo molto, comunque, per carità. E beh, ci dicevi Alice non ti è piaciuto molto, ma qualcosa che invece ti senti di suggerire ai nostri ascoltatori? Beh, a parte faccio autopromozione. Beh, certamente, quello... Non esco... Ti dico, io di letteratura contemporanea leggo molto poco. Mi piacciono di più i classici, sia perché per la mia formazione mi sono dovuto leggere tutti i classici russi e spagnoli, e quindi mi sono letto dei bei tomi, però credo che, adesso dirò una banalità, ma... io se dovessi consigliare qualcosa a qualcuno consiglierei uno scrittore russo molto, cioè Dostoevskij, che secondo me è molto, come dire, moderno ancora. E per esempio L'Idiota o Delitto e Castigo secondo me sono libri che ancora, come dire, hanno il loro messaggio e ancora molto attuale. E se invece volessimo trovare il collezionista di anoressiche, possiamo cercare nelle librerie di San Donà o un po' in tutta Italia? Allora, le librerie di San Donà sicuramente è acquistabile comunque anche online, nei circuiti ISBN e anche in tutta Italia. Eventualmente, se non è presente il distributore Ugo Mursia, si può ordinare e arriva in tempi brevissimi. Perfetto, poi ci dicevi che farai una presentazione a breve di questo libro. Sì, diciamo a fine novembre, se tutto va bene, dovrei essere a Trieste alla libreria Lovat. Altre ne ho già fatte, ho un po' girato Roma, in cui ho presentato fra l'altro nella libreria dell'editore, perché hanno anche una libreria loro. Padova, sono stato naturalmente qui a San Donà al Caffè Letterario. Ho in progetto altre cose, nel senso che adesso, diciamo, è un po' in giro in vari concorsi letterari, vediamo se ne esce qualcosa di buono. Qualcuno che mi ha un po', diciamo, è stata criticata l'ossutezza della narrazione. Per rimanere in tema. Esatto, però io, a parte che io non amo personalmente i tomi, nel senso che mi stancano, io un libro molto lungo difficilmente lo finisco. E poi comunque, essendo un libro sull'anoressia, naturalmente non potevo scrivere un tomo, però qualcuno mi ha detto che potrebbe essere una buona sceneggiatura eventualmente da sviluppare. Vedremo anche lì cosa ne esce. Beh, faccelo sapere nel momento in cui lo fai. Noi, guarda, sarai il primo. Io e Giulia siamo lì con i popcorn. Sarete i primi. Esatto, recitiamo più che volentieri. E no, ci dicevi prima che hai qualche altro progetto in cantiere. Ti va di rivelare qualcosa? Sì, beh, volentieri. Premesso che a volte mi diletto a scrivere anche qualche poesia, soprattutto quando sono molto depresso, però non l'ho mai fatta leggere a nessuno. E ho in cantiere un paio di cose, nel senso, una che riguarda la morte, l'idea di morte. Io purtroppo non riesco a scrivere di campi fioriti o di amore colombe, sperticato, esatto, cerviati, esatto, staccionate, amore 14, esatto. E un altro da cassare. E perché sono molto attratto anche da questa cosa, perché credo che, un po' osservando la realtà, poi fra l'altro purtroppo molto attuale in questi giorni, credo che noi cerchiamo molto di dare una rappresentazione alla morte, cioè di identificarla con qualcosa. In realtà la narrazione, quella storia che sto scrivendo, per cui ho già un titolo, lo vorrei chiamare mortuario, ambientata, cioè la storia raccontata da un medico, e è l'idea di andare fuori dal luogo comune che ci porta a rappresentare la morte nel pianto, nel cadavere, nella salma, nei fiori, nel parlarne, nel vantare parentele di ottava generazione per far vedere che tu, povero, lo conoscevi, per sfatare questa cosa e per, diciamo, sottolineare anche il fatto che, secondo me, premesso che nessuno sa cosa c'è dopo la vita terrena, cioè poi ci sono discorsi di fede, di filosofia, forse la fede e la filosofia hanno cercato di dare una qualche risposta. Secondo me la memoria, cioè una persona può rimanere anche viva in una ricetta che ti lascia, in uno scritto, in un ricordo, in un qualcosa di straordinario. Io credo che chi ha scoperto la penicillina sia ancora vivo, perché è una cosa straordinaria, esatto. Per esempio, quindi questo, sotto questo aspetto. Poi ho in cantiere un'altra cosa per la quale mi sto documentando, sto leggendo alcuni libri sul maternage, le cure materne quando prendono la via della criminosa, cioè il bambino nella lavatrice o piuttosto che qualcos'altro, e vorrei chiamarlo maternage criminale. Vediamo cosa ne esce, ho un po' di idee in testa. Anche per questo tienici aggiornati, perché anche perché a noi le cose allegre comunque sì, piacciono. Sì, sì, sì, perché mi poi fa piacere. Cioè, beh, rimanere vivi tramite le opere è un po' il nostro obiettivo di lungo periodo, però poi e cioè ci proviamo, insomma. Allora, io ringrazio Andy per essere stato con noi, è stato molto divertente parlare del libro con te, mi ha fatto estremamente piacere, ringrazio Giulia, Giulia, grazie ancora per... Grazie a te. Un ringraziamento particolare va anche a Daniele, che ci ha accompagnato, che non finirò mai di ringraziare abbastanza. Con le sue gelide manine. Esatto, con le questa volta gelide manine ci ha accompagnato in regia per tutti i 45 minuti della conversazione. Prego. Io ringrazio voi dell'ospitalità, vi faccio molti complimenti per il lavoro che fate, perché mi piace molto, e per dedicare un po' di spazio ai libri, che è uno spazio sempre prezioso e che altre radio non fanno. Grazie mille. Noi salutiamo gli ascoltatori e li rimandiamo alla prossima settimana con una citazione del collezionista di anoressi, che in sostanza capita spesso che Dino ascolti una canzone. Vuoi dirci qual è? È This is the End dei Doors, una delle mie canzoni preferite, tra l'altro. Esatto, e noi per salutarvi andiamo a farvela sentire. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So of some stranger's hand in a desperate land. and all